Storie de no altri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera, buonasera alle signore, ai signori, e ci ritroviamo qui per un'altra trasmissione, e così cerchiamo di farvi compagnia nel miglior dei modi. Qui abbiamo il nostro Antonio. Ciao Antonio. Diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 NFM. Ricordiamo, per chi lo desidera, che c'è la possibilità di seguire il programma in streaming o naturalmente di effettuare il download o di seguire con scaricare il podcast della trasmissione per anche eventuali ricordi di altre trasmissioni pregresse dal sito bluradioveneto.it. Stasera abbiamo con noi il professor Francesco Crosato, che è già stato nostro ospite in passato e che è sempre molto molto molto gradito. Buonasera Francesco. Buonasera Francesco. Ciao a tutti, ciao a tutti. Bene. E grazie per l'invito ancora una volta. Tu hai sempre tante belle cose, tante, che fanno anche sorridere, che ci tengono anche un pochino allegri. Cosa dici Antonio, andiamo con la prima canzone? Andiamo con la prima canzone, che è sempre monotematica. Ah sì, quest'anno esatto. Abbiamo scelto di non canzoni una all'altra, per esempio prendiamo un cantante, un autore e facciamo le canzoni di lui. Stasera c'è Franco Califano e cominciamo con Minuetto. Incognito in sera mia, un'attesa pari a un'agonia, molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no, le mani mie che vanno su di te. E le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai. Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Io lo so, e ci sto, male che mi vada, no, tutta te e sarà. Per una notte rinnegare una passione, no, ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità, meglio la libertà, piuttosto che aspettarti nelle sere per elemosinare l'amore. E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai. Te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada, avrò tutta te e sarà per una notte. La vita sta passando su noi, gli orizzonti non ne vedo mai, ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu, il resto di una gioventù che ormai non ho più, e con continuo sulla stessa via, sempre ubriaco di malinconia. Ora ammetto che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti, invece ti ho cercata. Ah, ah, ah, ah, ah. La mia mente non si ferma mai. Io non so, amore vero, che sorriso ha. Pensieri vanno e vengono, la vita è così. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale chiediamo, a beneficio dei numerosi e sempre nuovi ascoltatori, di tracciare un breve profilo autobiografico. Allora, io sono Francesco Crosato, sono nato a Treviso, nel lontano, più o meno lontano, 55, opinabile, non c'è problema. E attualmente appunto insegno al Mazzotti, istituto turistico di Treviso, insegno italiano e storia. La mia grande passione da sempre, da quando ero proprio giovane, è appunto la scrittura, in particolare la poesia, sia in italiano che in dialetto. Ma oltre a questo ho anche scritto fiabe, racconti, eccetera. Ho pubblicato qualche testo, allora Cos'hai che non parli, una prima raccolta di poesia in italiano, Sciantisi in dialetto, il poemetto No so e non so che abbiamo fatto qui mesi fa, in altra occasione, un libro di fiabe, omettine in camera ed altre cose. Ecco, più o meno questo, insomma. E oggi che cosa, stasera cosa ci presenti? Ecco, oggi volevo cominciare con un omaggio al grande poeta trevigiano Ernesto Calzavara, che scrive sia in italiano che in dialetto e che è un po' un mio anche modello, diciamo. E poi passerò negli altri momenti successivi invece a poesie mie, sia in dialetto inizialmente che in italiano, poi ne parliamo via via. Ok, a te la parola. Sì, allora, Calzavara, Ernesto Calzavara, due parole, proprio due biografiche, è nato a Treviso nel 1907, si laurea in giurisprudenza, poi fa l'avvocato a Milano per tantissimi anni, muore molto anziano, oltre i 90 anni, no? E quindi è morto, mi pare, intorno al 2000, e qui a Treviso, però è vissuto tantissimi anni, ripeto, a Milano. E è un grande sperimentatore della lingua, riusciva quindi a mettere insieme in certi testi addirittura l'italiano col dialetto nostro, anche col milanese, l'inglese, quindi era veramente interessante, poetico, diciamo. E di lui volevo leggere tre poesie per darvi l'idea del lavoro poetico. E la prima è in dialetto, cane. E la seconda è Porcel. Questa, diciamo, dalle nostre parti è una parola che si conosce. E invece la terza, che è più, diciamo, elaborata, ma insomma come lingua, è appunto una mescolanza anche di linguaggi e di lingue diverse, che è Ricerche par un robot. E queste sono le tre. Allora cominciamo con Can. Can, no te si mio, te gan altro paron. Te si magro e straco, ma un occio bon, me par. Te vardo perché si can te me piasi. Te va de qua, de a, te nasi, e po' te assistar. Te va col tuo troteto che a strada no pesa, sito, dove non se sa. Can, se te digo tutto, m'ascolti tu. Senti, son venuo qua, né a casa grande dei veci che se morti, so io. Dite si entra dal merestel averto in giardin, pa vardar. Cosa vardar? Un uomo griso, tra d'ortighe, che fiorisse e che more ogni anno, can. Ti te conosci il tuo paron e col te bate te piansi e te ridi e a tua moda dopo. Mi so che go paron, ma chi che sia non so, non l'ho mai visto e col me bate bestemo. Ecco qua, son tornane a me camera vece a copari musati sui muri qua savata ogni sera. So tanto stufo, can, non ne posso più destrussiar, ti come mi. Eppur te speri, te vivi, e a tua anima vadrio e tue gambe da canton a canton sua strada ogni dì. Can, pien de pulsi, de forza, de fame, can tutto curame. can grando, can serio, can mai contento, can pien de tormento, can desparà, can superbo e curioso, can capriccioso, can coe cagne ogni tanto, can bon, can sabaton, can moscador, pien de farfà in testa, can da festa e da lavoro, can senza partio, can finio, can de cuor, can cassador, can foresto, ma de sesto, can che dorme, rustego, can maton, sempre de sbrindoeon, can povero e sior, tutto il dia cercar, quel che non te pol trovar. Can dritto e sceto, de drento e de fora, can de amaiora, tutto can, vien qua, dame assata, can. E po scampa, scampa, si no te bato, mi me bato, frusta via, can. Che bella, bella, ecco, bella. Il miglior amico dialogo, simpatica. Dialogo allo specchio con questo cane, no? Invece, quindi anche molto profonda questa prima poesia, sì, perché... che sembra in realtà così leggera, no? Mentre la seconda che vi propongo è Porcel, questa è molto più leggera davvero, Porcel. Benedetto ti, Porcel, che te me vardi, mastegando contento e sgrufoeando, mi che son tutto rabalton dentro, pien de inutili affani. No averani, ma giorni come ti, ghevorave. Porcel, muso sporco de fango, che te magni i peri crui cascai per terra, e il vento fa bogiar le foglie e scarufa le pene alle gaine in cortivo. Porcel, tutto panza, lardo duro, scorsa de alba rovecio, boom! I pulsini non scampa nianca, coi te vede, piavo e otto in botio. Varda su, Porcel, che gesè, na nuvue lesiera, lesiera che svue a pian in ciel. Varda che bei fiori sai sul pra, l'oseto contento che se neta e ae col beco. Porcel mio bel rosa, quei recete alte sul sgrugno, e po' piegate in zo sui oci, muso da paiaso, che tu magna ben vecio, si tu passù. Che belle, che simpatiche. Richiama i temi dell'infanzia, sì, contadina. Questa è proprio divertente. Poi c'è questa, vabbè, c'è Esti, una, ecco, questa è un po' di passaggio su una scena d'amore molto molto bella, ambientata a Venezia. Cesti, cesti to gran oci de gata, verti sua laguna, mati riflessi lusi de luna, co te fasevi fusi, svoeavo come i cocai alti sora San Poio. Adesso se tardi ormai, l'angeo se destira, coi soae verte sull'acqua, e il sol se brusa sotto le barche d'oro. Che questa è bella, molto, molto fine, molto, molto delicata, raffinata, sentimentale, sì, molto bella, e sognante, molto bella. E concludiamo con Ricerche per un robot, che è molto attuale sul dominio della macchina, della macchina. Ricerche per un robot. Una scheda, due schede, tre schede, una infinità di schede, par drento e congegni. Te insegnerò mi robot. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Meo, Tito, Cucubo, Tatò, Bisa, Boa, Bisa, Cuna, Busa, Barea, Alzo, Gamba, Alzo, Brasso, Ma, Puti, Noto, No, Pol, Imparar, No, Pol, Imparar. Sì che te impari, su, avanti. Io son liberal che sta a Saint-Palais. E dopo? Li popoli di Trevigi, non avendo legge né statuti né ordine, vivevano secondo loro desideri. Desideri. No dialetto, no dialetto, desidero lingua. Erano i capei d'oro a Laura sparsi. Volere capei d'oro, volere oro, ora, comandare, volere bionda robota, e tutto potere, contesto, orbite, galassie, desossi, ribonucleico, è uguale mc al quadrato, è uguale mc al quadrato. Buono, buono robot, la parola si pensa in te, e quello che dici ti fa ora imparare per ordine essere consapevole, promettimi, giura,

letto una parte citato, in passato, pare, in passato, citato, sì, adesso sì, esatto. Ci dedichiamo un attimo. Com'è il titolo? Ma mama o no mama, me mama? È abbastanza divertente, lui parte da questo concetto, cioè dal nome mama. In dialetto mama è una M, se metti l'apostrofino sulla M diventa mi ama, e se metti una I, ama, diventa Amia, che è la zia. Amia, quindi un gioco di parole. Allora, sì, gioco sì, di sì, parole, sì. Giocando un po' su queste parole simili, e tra l'altro pare, che significa in italiano, sembra, pare, mi pare, ma pare in dialetto, padre in italiano, insomma ho ricostruito un po' le vicissitudini infantili più o meno giocando su questi termini dialettali o italiani, e ne è uscito questo poemetto che adesso vado a leggere. Allora, ma mama o no mama me mama o no mama me amia mama pi che me mama. Me mama no mama, no mama no mama, mama che mama. Mare che mare, me mare, pare che pare, me par che me pare, no me ame. Pare che vien, pare che va e vien, pare che sparisse, pare che svampisse, pare che svanisse. Ma amo de pi me amia o amo de pi me mama? Sento pi mia me amia o sento pi mia me nona? Dona che dona, menona, che pianse, che ride, che scuria, che viscia, che fiscia, co ortighe, dura che dura, menona, dona dura, dura de tete, consumae, sora e carete, no, co fai moneghe, che gae tete, tenare. Mama no mama, o mama poco, so un peo, un fia, parqueo so così ceo, tirà. Ceo, ceo, tirà, tirà, steo, steo, senza fia. Dove si tu finio, dove si tu scampà, fa fio da un fio, e il messegà sfia. Fio, fio, mio, mio, fio de fio da fio, fiol de fiol de un fiol da dio, fiol de dio, mio, mio, mio, sfia, sfia. Padadrio, e il mese scampà, sotto una toia, sotto una sioia, sotto un toco de grisioia, in tu morter, sopra un secer, drio il crepo de un bicer. In tellebo de na pompa ancora in fassa, cavando sora pensier a strassa. Mare re, re, re, re ma re, te trovi to mare remando, ando, ando, remo su remo, dai che semo, semo, dai che stemo, stretti, uno più uno manco, strenzete sul fianco, fossimo al manco in manco, te o gaveo dito, no che sta pignanca un pito, rema po, e sito, sito, il mar bronto, il mar impreca, il mar s'ingrossa, il mar s'infia, semo qua mi topare, tomare e tosia, eccetera, eccetera. Poi va avanti, è molto lungo, ma vi ho letto un po'. Sì, sì, ma è molto, molto simpatico, molto simpatico. Ecco, poi sì, dietro poi una questa vertigine linguistica. Sì, esatto, poi c'è comunque uno spaccato anche di una situazione anche di campagna dove sono vissuto bello, appunto da piccolo, e quindi su questa campagna veneta. Anch'io amo la campagna. Bene. La campagna è, ma io la amo di più del mare e della montagna. E io ho vissuto in campagna tutta l'infanzia, anch'io. No, perché ero nato qua in città, poi mi sono spostato a mia nonna fino ai 10 anni, per cui ho vissuto sia in città in parte e molto in campagna, per cui molte delle mie poesie, almeno inizialmente, allora, riprendono questo vissuto, e quindi anche, ecco perché anche il senso del dialetto che ti permette di scavare a fondo anche prima dei 6 anni, cioè prima dell'età scolare, se sei di lingua madre dialettale. Questo discorso l'abbiamo fatto a suo tempo, esatto. E io ho riscoperto il dialetto come lingua letteraria, diciamo, attraverso Zanzotto, leggendo Filò di Zanzotto, quando si legge, no? Pin, Penin, Bentin, Mi, sì, Buroto, sì, sì. Pea, Penea, Petenea, mi sono stato proprio colpito, no? Dalla potenza di queste parole che ti rinviano alla prima infanzia, evocative, quindi torni all'infanzia, torni al tuo mondo che avevi in parte dimenticato, e ti ti dà l'idea di non aver mai scritto una poesia pregnante, no? Allora per un periodo recuperi questo linguaggio, insomma, fino in fondo, che è per sempre molto recuperare bello, tutto questo passato e soprattutto poi rimescolarlo col presente, col linguaggio di oggi, perché poi non bisogna mai fare delle cose sì particolarmente nostalgiche o malinconiche anche nell'uso, esatto, del dialetto, ma renderlo attuale, vivo, giocare con le parole come fa Calzavara, che insomma, è molto, molto più accattivante, esatto, quindi anche suscettibile di essere ricordato, perfetto, altrimenti diventa il lamento, il dire lamento che ben stavimo una volta, esattamente, questo è deleterio, invece bisogna appunto renderlo vivo, vero, e giocare con certo, le parole, certo, insomma, certo. Questo è l'ottica per cui, ecco perché mi piace Calzavara proprio in questa chiave, insomma. Ma adesso che cosa ci leggi? Beh, dopo, diciamo, magari dopo il break, penso, no, della canzone, vi proporrò invece, cambiando completamente argomento, Bernanos, dopo poi vediamo perché. Io ho letto Bernanos, diario incurato in campagna, e mi è venuto in mente così di fare un'opera un po' strana, cioè una sperimentazione vera e propria, cioè di trasformare la prosa in poesia di alcuni pezzi di quel romanzo. Perfetto. Ne parliamo dopo. Ma prima di passare a Bernanos, io direi, se è possibile, leggere ancora qualche brano, qualche frase di questa... Di questo, perché è talmente evocativo, sì. è come una filastrocca da altri tempi, non lo so. Ecco. Allora, diciamo, partiamo da qua. Mare, mare, mar, mi vuoi cantar, mare, mare, mar, mi vuoi sigar, mare, mare, mar, mi vuoi osar, sì, sì, mi vuoi cantar, con tutte le mie forze mi vuoi sigar, per sempre mar, mar, mar. Mi vuoi menona e nome mama, son come in coma. Codigo che vuoi menona, son come una coma che vien su, che si inciuca, si incruca, si incrosta, si ingolfa, si intripa, si imbestia, si impesta. Sta coma vecia, fa una putana, si intorga, fa una rana, si incana e a fa tanto finché a sciopa. Sta coma verta, sbregada, infumegada, rota, sta coma sfondrada. Una coma che pianse, che siga, che fischia, che viscia, come una ortiga. La coma che ride, che usma, che canta, una coma santa, che scrive, che more, che vive, che sente, che gode. Basta, basta, son stufo, son agro, sciopo, copo, me copo, son verto, son storto, son rotto, son coto, son sbregà, son squerto, fa un copo. Soco, socasso, memasso, temasso, cote si massa toco, sempre a sogara scopa lasso, cote perdi sempre, te vinsessi al manco ogni tanto rotondaresimo, fine mese al manco un franco, toco de soco taiaco a manera, toco de suca porse era, te schinso, mi si che te schinso. Cosa gatto anche al coraio adesso voltarte contro, tirarmi anche addosso qualcosa a to femena? Gaera, gaera, per quei come ti, pan e acqua e zo partera, pan e acqua in frameso e sbare, con a bea vantiera ogni sera, niente sol via pal giorno, mai in costiera, feri, feri, partera, stretti, stretti sui polsi, na bea caena torno e caice, e na bea de ferro, de pico e onso e rece. Purito. E questo c'è tutto anche la violenza. Del tempo della campagna, che non è solo, sì, diciamo, cioè, l'aggressione, un po' così il lavoro, naturalmente, il lavoro, che era, esatto, però così trasformato, così sublimato da queste parole che non so, a mio avviso trova una dimensione che è diversa, onirica, no? È bravo, esatto, sì. Ma diventa veramente divertente, diventa... Esatto, toglie quella pesantezza, la drammaticità, esatto, e lascia questo spirito, diciamo, molto, che è straordinario. Va bene, allora io direi che adesso noi possiamo passare alla terza canzone, che è L'ultimo amico va via. L'ultimo amico va via, domani se va a sposare, se gioca la libertà, pure lui, è vecchio. vecchio gruppo giusta. Me li son persi così. Se sono scordati di me, tanto amici, e poi tieni. Ogni cosa se ne va, finisce il ciclo del da. Domani chiuder bar in fondo e via. Quanta nostalgia mi viene, si penso quando tutti noi se giocavamo a carte qualche bottiglia. E saluto gioventù, e ne sei andata pure tu. Adesso a me che mi rimane più l'ultimo amico va via, e insieme a lui l'allegria. Ci resto soltanto io a pensare che la fa. Ci resto soltanto io che ho da fa. Ogni cosa se ne va, finisce il ciclo d'età. Domani più del bar in forno e via. Quanta nostalgia mi viene, si penso a quando tutti noi se giocavamo a carte qualche bottiglia. Te saluto gioventù, te ne sei andata pure tu. Adesso a me che mi rimane più eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, il professor Francesco Crosato, che ci diletterà con le sue belle poesie. Bene, adesso dicevamo prima, no, volevo così fare una parentesi ancora diversa su Bernanos, Georges Bernanos, o Bernanot, perché dipende se si lega in spagnolo o in francese. Francese. Lui è nato appunto, vedevo qua, è nato a Parigi nel 1888. Però poi la famiglia del padre è di lontana origine spagnola, per cui da un lato ci sta l'uno e l'altro. Sì. Io di solito dico Bernanos. E allora, andiamo alla sostanza. Cioè, ha scritto questo bellissimo romanzo, diario di un curato di campagna, ambientato nella campagna francese tra le due guerre, e da cui è stato tratto tra l'altro un film bellissimo di Bresson in bianco e nero, stupendo, che è la storia appunto di questo prete di campagna ammalato che si dedica completamente, insomma, al suo esercizio, alla sua missione, no? Pur essendo inviso dalla popolazione, non si fidava perché era certamente si poneva in un modo molto strano, molto solitario, un mistico alla fine, insomma. Allora, cosa è successo? Io leggendo questa opera, Diario di un curato di campagna, nella traduzione in italiano, perché è importante questo, di Adriano Grande, che è un traduttore che era anche un poeta amico di Montale, mi sono reso conto che in certi punti questo romanzo era estremamente poetico. C'erano dei passi in prosa, tradotti dal francese, quindi in italiano da questo grande poeta, che di fatto, cioè, erano lirici. E allora li ho isolati e ho creato, senza, solo togliendo qui e là qualcosa, quindi senza aggiungere niente di mio, li ho semplicemente isolati, li ho trasformati in poesia mettendosi dei versi. E sono venute una cosa come 200 poesie che raccolte da questo romanzo, e che appunto mettendole insieme, più che la trama, insomma, danno dei momenti lirici. Poi naturalmente li ho un po' raggruppati per argomento e volevo appunto leggere queste poesie che ne sono nate. Sì. Quindi l'ho chiamato falso d'autore, in realtà Bernanos in poesia, da diario di un curato di campagna. Vediamo ad esempio, leggo qualcosa, no, per sì, capire per... l'inizio, come descrive il villaggio. Il villaggio. Cadeva una di quelle piogge sottili che si inghiottono a pieni polmoni e che vi scendono fino al ventre. Il villaggio m'è apparso bruscamente dalla parte di Saint-Vast, così ammucchiato, tanto miserabile sotto l'odioso cielo di novembre. L'acqua gli fumava sopra, da tutte le parti. Sembrava essersi coricato là, nell'erba ruscellante, come una povera bestia stracca. Non avevo mai sentito tanto crudelmente la sua solitudine e la mia. Ecco, questo è proprio questo sguardo sul villaggio, e in cui si identifica chiaramente nella solitudine che lo accomuna. Questo non è proprio l'incipit, ma è nelle prime pagine. 3 e 4, per dire. Dopo parla, sempre pagina 4, della noia. Dice, è bellissimo questo pezzo, dice: la noia è una specie di polvere. Andate e venite senza vederla, la respirate, la mangiate, la bevete. È così sottile, così tenue, che sotto i denti non scricchiola nemmeno. Ma basta che vi fermiate un secondo. Ecco che vi copre il viso, le mani. Dovete agitarvi continuamente per scuotere questa pioggia di ceneri. Perciò il mondo si agita molto. Il vuoto, no, il che vuoto costringe la gente freneticamente a fare per non sentire questo vuoto. Ma succede, veramente. Questa succede. È un'operazione unica, devo dire, perché questa... Sì, adesso vediamo, è tutto inedito ovviamente, certo, perché poi ci sono problemi di... copyright eccetera, però insomma è una trasformazione di un testo, esatto. Alla fine insomma tu lo dici, lo denunci, poemi, diciamo, con esatto, composizioni a sé stante, perché ciascuna ha vita, esatto, propria, mi esatto pare. Si possono in parte raggruppare, mm-hmm, per argomento, ma sì, non è importante ricostruire il romanzo quanto focalizzarsi su alcuni punti. Esatto. Punti sali, ad esempio qua parla, quindi vado proprio a temi anche i più diversi. Il prete letterato, cioè anche questo, no? Ti fa pensare, cioè il prete intellettuale, troppo intellettuale, che perde in umanità, no? A causa di questo. Mm. E allora dice, terribile tra l'altro, il prete letterato: probabilmente ho una natura troppo grossolana, troppo frusta, ma confesso che il prete letterato mi ha sempre fatto orrore. Frequentare i begli spiriti, insomma, è come pranzare in città. Ma non si va a pranzo in città in barba a quelli che muoiono di fame. Ma questo è terribile. No, in effetti sì. Dà da pensare, effettivamente. Molto. Sì. Oppure questa, che parla di una brava suora di Bruges, e questa anche fa pensare per le persone che hanno questa attenzione anche un po' maniacale all'ordine, no? Mm-hmm. Anch'io sono uno di questi, tra l'altro. Come questo può però creare un distacco con le altre persone, no? Che magari un ospite, invitati. Qui parla della suora e nel rapporto con la chiesa, con proprio la chiesa come edificio. Anche questo è interessante. Pensate a quelle famiglie, no? Allargate, in cui la donna si pulisce, ma anche lascia un attimo che questa casa venga vissuta, sì, no? Sì, perché sì, altrimenti anche quello diventa un problema. Diventa un vincolo, una sudditanza. Allora, su questo sentite cosa dice la brava suora di Bruges. Il suo torto, certo, non è stato di voler combattere la sporcizia, ma di averla voluta annientare. Una parrocchia è forzatamente sporca, una cristianità è ancora più sporca. La mia brava suora non era una vera donna di casa. Una vera donna di casa sa che una casa non è un reliquiario. È vero. Sì. Perché nulla casa, da aggiungere. La casa va vissuta. Sì. No. Dopo qualcosa, ecco, sempre sull'umanità, vediamo. Paglia fresca al bue, strigliare l'asino. Il mio bambin Gesù è troppo giovane per interessarsi già molto di musica o di letteratura. Probabilmente farebbe persino una smorfia a coloro che si contentassero d'arrovesciar gli occhi invece di portare della paglia fresca al suo bue o di strigliare l'asino. Insiste su questa cosa, per noi un po'. È una visione molto, come dire, particolare. E anche questa, che questa poi ancora più una bellissima, secondo me, sulla diversità della varia umanità, ecco, no? Il gregge e i caproni. Ho un gregge, un vero gregge. Non posso ballare davanti all'arca col mio gregge, con del comune bestiame. Vuoi dirmi a che cosa somiglierei? È un bestiame né troppo buono né troppo cattivo, buoi, asini, bestie da traino e da lavoro, e ho anche dei caproni. Che cosa devo farne dei miei caproni? Non c'è modo di ucciderli né di venderli. Un abate mitrato ha solo da dar la consegna al fratello portinaio. In caso di errore si sbarazza dei caproni con un gesto. Io non posso farlo. Dobbiamo approfittare di tutto noi, persino dei caproni. Caproni o pecore, il padrone vuole che gli rendiamo ogni bestia in buono stato. Non metterti in capo di impedire al caprone di puzzare di caprone, perderesti il tuo tempo, rischieresti di cadere nella disperazione. L'accettazione. Che a parole è facile, diciamo, quando in situazioni ottimali e compagnia. È un gran libro sto diario, allora, curato sì, campagna, fa pensare. Io l'ho letto da tanti anni. Anch'io dopo l'ho riscoperto. Dopo bisognerebbe rileggerle le cose, sì. E l'ultima, se abbiamo il tempo, no, di leggere l'ultima, che ho portato sull'infanzia. Lo sguardo della madre, anche questa bellissima. Da che proviene che il tempo della nostra prima infanzia ci appaia così dolce e radioso? Un marmocchio ha le sue pene, come tutti. È nel complesso così disarmato contro il dolore, la malattia. L'infanzia e l'estrema vecchiaia dovrebbero essere le due grandi prove dell'uomo. Ma è dal sentimento della propria impotenza che il fanciullo trae umilmente il principio della sua stessa gioia. Si rifugia in sua madre, presente, passato, avvenire, tutta la sua vita, la vita intera è compresa in uno sguardo, e questo sguardo è un sorriso. Vai. È bella, molto profonda questa. Sì, qua richiama anche profonda. Il discorso della Madonna, la madre della Madonna, eccetera. Poi c'è sempre questa cosa. Sono dei passi straordinari. Sì, esatto, c'è sempre questo afflato di misericordia, sì, mi bravo, pare di capire. Bravo, perfetto. Sai. Perché non quello del giudizio, esatto. Non quello della ricerca di catarghi, iradeghi, come diremmo noi, ma quello di comprendere. E quindi insomma, grande quello. Umanità. È un libro da rileggere, davvero. Sì. E io spero, appunto, con questo mio piccolo contributo, cioè mettendolo in poesia, anche rendendolo forse più agile, non so, o comunque leggendolo in un'altra dimensione, un altro taglio, di un po' aiutare a riscoprirlo. E quindi riprenderne la lettura. Esatto, naturalmente, la lettura, nella però versione. Accanto a questo, ripeto, Bresson, il film in bianco e nero. In bianco e nero è fantastico. Un'eleganza straordinaria, esatto. Benissimo. Noi ci possiamo fermare un attimo. Sì, per la quarta canzone in programma. Esatto, che è Quartiere. Quartiere, che bella. Io che andavo per le strade di quartiere, io con un penale tutto da pulire, io che non la davo vinta neanche morto, io che mi hanno sempre tolto il passaporto. Io, le donne, mille corpi e nessun cuore. Io, che ormai mi stavo già lasciando andare. Io, di notte in giro in rete disperati. Io che ho sempre riso degli innamorati, ma adesso ci sei tu qui con me ed io non rido, ma al contrario vivo te. Ora che ci sei tu e ci sei, prendo il momento come meglio non potrei. Coi guai che mi potevano far male, a vivere ma senza respirare. Io, con tanto di passato da scordare. Io, un uomo nuovo tutto da scoprire. Ma adesso ci sei tu. E voglia di cantare, canto te. Quando non ci sei tu, io resto qui. L'amore cambia un uomo da così a così. Cantare, canto te, quando non ci sei tu, io resto qui, l'amore cambia un uomo da così a così. Eccoci di nuovo in studio col nostro ospite, il professor Francesco Crosato, che continuerà a leggerci delle cose stupende. Allora, volevo leggere adesso, ma nelle altre mie poesie, una in particolare che fa parte di una raccolta che non ho ancora pubblicato sulla costa adriatica. Cioè, ho ripercorso la costa adriatica da Mugia a Cattolica e per ogni posto ho scritto una poesia, poi farò anche delle foto, in cui mi sono chiesto come la storia e l'attualità si siano amalgamati, insomma, per dirla in parole povere. Jesolo è un po' un disastrino da questo punto di vista, perché storia e attualità non è sia, mentre Caorle c'è un amalgama stupendo, insomma, no? E, ecco, allora vi leggerò questa su Rimini. Allora mi sono chiesto qual è l'animus, l'anima di Rimini, no? Come potrei chiederlo per ogni località balneare, io amo il mare tantissimo tra l'altro, e ho pensato che questa Rimini antica, no? Romana, rinascimentale, c'è cioè il Duomo malatestiano eccetera, e nello stesso tempo la spiaggia, no? Con Fellini eccetera, quindi questa parte balneare moderna, la parte antica eccetera, possono essere viste come un'onda che ha una sua continuità assoluta, non c'è frattura a Rimini. E allora ho immaginato quest'onda che appunto percorre questa città, Rimini. L'onda scende lenta lungo il lungomare, la sera il suc di negozi a Frori segue un filobus a braccia levate, lambisce vecchie colonie smarrite, quasi attonite, casa del bimbo, colonia umbra Pio XII, arriva a Riva Azzurra, bella riva, poi di nuovo a Riva, sugli ombrelloni ondeggianti, sugli hotel in fila, ambra diplomata Augusta Alessi la gradisca, sulle mie allegre bandiere sventolanti al sole, in auto, a passo d'uomo, la radio accesa, non faccio che pensare a una donna, come giusto che sia qui a Rimini. L'onda sfiora il faro, s'allunga sulla ruota panoramica e si spande nel centro della città, sorvola il grattacielo, anni 50, il ponte della ferrovia, l'insegna per San Leo, gli edifici del fascio, il porto canale, le antiche mura, il castello, l'anfiteatro dalle lingue di pietra, l'arco augusteo dalle grigie colonne tremanti, velate a matita, scende fin sulla piazza e si raccoglie attorno allo scrigno d'Istria dove scorre il fregio leggero e le tombe in fila sul fianco, il giotto velato all'interno, come la sua chiesa santa, e le grigie colonne d'Augusto e Malatesta col cane davanti a San Sigismondo in ginocchio, i grandi archi dell'Arengo, Paolo V, l'energico benedicente, la fonte dalle diverse cadute, la pescheria vecchia, i cinque archi di Tiberio, dai maestosi parapetti di pietra, imponenti sacchi di sabbia e le auto che incuranti scorrono di fronte alla rosea Santa Maria dei Servi, 2000 anni di storia, dopo un giorno intero di pioggia e di vento, l'onda si spande sul mercato, si riversa sui vicoli, sugli archi e sulle piazze, mentre un sole adolescente e distratto si posa sulle antiche mura e ritorna ancora l'anima romagnola, si risveglia la giovane donna, la sua freschezza intatta. Un violinista in frac e occhiali scuri suona Mozart sotto un arco in piazza. Bello. Rimini, romana, medievale, malatestiana, felliniana, lenta, onda fluida. Rimini, lunga, lunghissima, dolce, ammaliante, colata. Bella, bella, bella, bello omaggio. Ecco, questo è una, un bello omaggio a Rimini. Un incrocio tra sì. Baedeker, no? E Lonely Planet, eccetera, in poesia. È, una in cosa poesia. È anche una poesia visiva, perché se tu hai notato, sì, le immagini, sì, è tanto strutturata come un'onda. Come un'onda. Bella, bella, ecco. Bella. Poi... propongo adesso invece Venezia, che no, cioè non è semplice ovviamente scrivere su Venezia, che è stata saccheggiata in tutti i modi, anche dal punto di vista letterario. Quindi trovare il modo di dire qualcosa su Venezia attraverso dei flash, delle immagini. Ecco, Venezia. Dal mulino stucchi le isole dall'alto, ma dov'è Rialto? Le zattere in faccia al sole, tenui le sere di lampioni viola, lungo le procuratie nuove, i piccioni impettiti con gli imperatori sui cornicioni, i cavalli intirizziti nella neve, la marciana putrefatta, la loggetta ancor più bianca stupefatta uscendo da una calle buia, tra ponti, giardini, altane, camini, terrazze, abbaini. Da una cella dei piombi il pellico pensa alla Zanze, quella sua acerba bellezza la mi turba, la mi confonde. Si confondono le acque sotto il ponte dei sospiri, con la gondola che passa, tremano capitelli, tetti, trifore, bricole e pontili. Fremono già le sottane delle tenere dee primaverili. A San Giorgio, ai giardini, all'arsenale, all'isola degli Armeni, una lapide, uno squero, un piccolo cimitero. Veronese a San Sebastiano, Tintoretto a San Rocco, l'ultimo vaporetto, sottili capelli al vento. Oh, che belle immagini, mamma una mia. Sintesi, bello, c'è sempre, una, c'è sempre una donna che solca, bello, veramente. E ecco, queste appunto l'ho ormai completato, non ancora pubblicato, appunto ripeto, avrà il titolo, penso, Sotto Costa. Viaggio solitario lungo l'alto Adriatico. Piccolo capotaggio. Ecco. Mm-hmm. Adesso ultimamente cosa hai pubblicato? L'ultima cosa, beh, appunto, dunque abbiamo fatto il DVD del Non so, non so, quindi non solo sacrestano il non solo, no? Quel poemetto l'ho trasformato appunto in un CD più che un DVD in realtà, perché c'è solo la musica di Luciano Buosi e le mie parole. Ecco, questa è un po' l'ultima cosa che ho fatto, trasformare il libro in CD, la recitazione. Ecco. Beh, è così, uno... Dove si può acquistare? Sì, si può acquistare nelle librerie qui a Treviso, a Lovat, pure a Canova, eccetera. C'è appunto il CD in MP3. È perché è molto utile. Eh sì, per appunto sentire, perché molti trovano incontrano difficoltà a leggere il dialetto, quindi proponendo registrato, diciamo, l'ascoltano, ecco. C'è la musica, il commento musicale, ripeto, di questo grande jazzista trevigiano al pianoforte, Graziano Buosi, organo anzi in quel caso, e quindi ecco, che spero che abbia una maggior diffusione. Ma l'hai appena pubblicato? Sì, beh, so qualche mese, sì sì. Comunque l'importante è che la gente... Sì, lo compri, che si... Perché sai, se si legge, se ci dice, ah, guarda che belle, guarda che belle poesie, guarda, e dopo non compri il libro, non... Sì, esatto, quindi hai bisogno appunto di comunicare ciò che fai attraverso il libro, in questo caso il CD, perché ti dà, è più semplice da decifrare il dialetto, insomma. Ecco, un assaggio di qualche altra composizione. Ma io vorrei, diciamo, adesso concludere con una poesia dedicata a mio padre. Voglio fare questo omaggio perché mio padre è un personaggio anche abbastanza conosciuto a Treviso, è stato presidente degli istituti di ricovero, è morto nel 2008, a 80 anni circa, e quindi poi ho scritto questa poesia ricordandolo, volevo fare questo omaggio, se mi permettete. Tranquillamente, certo. Avrei dovuto obbligarti, quando cominciavi a invecchiare, come fossi il tuo dottore, ad andare ogni giorno a leggere il Corriere sotto gli archi del 300 in centro, un buon calice di prosecco o un buon caffè corretto. Un viaggio insieme dalle parti di Solferino e San Martino, qualcosa che avesse a che fare con la nostra amata storia patria, parlando di politica lungo l'autostrada ma senza più litigare. Un pellegrinaggio a Follina ogni tanto, alla tua dolce Madonnina di pietra o a Lourdes, infilarci insieme come due bambini nella miracolosa vasca, pensare che sei tu mio padre e basta. I tuoi minuti foglietti di lavoro, la tua criptica scritturina e la tua mente troppo affaticata. Non ti ricordavi più le parole, ma era bello al supermercato col berretto, col frontino, io e te tra gli scaffali a canticchiare volare, oh, volare, oh, oh, oh. Sognavo parlare di storia e politica con te, ma te ne sei andato da uno di quegli ospizi che avevi diretto, come un vitangelo moscarda smemorato, e c'è chi è messo ben peggio e non può che implorare un posto. Ma io volevo parlare con te del nostro risorgimento, leggere insieme sulla terrazza al mare qualche pezzo di storia patria controversa, magari sulla conquista d'Abissinia, della tua infanzia popolata a scuola di bandierine puntute. Mi immaginavo così, a parlare di storia con te, chissà perché, un po' di politica, una partita a scacchi, ogni tanto sulla terrazza al mare con te in canottiera e il cappello di paglia. E la mamma, per una volta distesa, che sorridendo ci porta il caffè su quel suo vassoietto di barche a vela e quel cucchiaino australiano d'argento dentro la zuccheriera col canguro sul manico. Un cucchiaino rasato per te, due cucchiaini pieni per me. Bello, ecco. Come... È un ricordo molto, straordinario. Sì, molto, molto. Niente, non ci resta ringrazio. Altro che naturalmente il tempo qui è volato, come sempre, allora, in questi casi. Sì, ripetiamo che abbiamo avuto come ospite il professor Francesco Crosato. Saluto tutti, vi ringrazio ovviamente. E ci sarà una prossima volta. Sempre noi pronto, ci contiamo. Sempre ecco, pronto ci contiamo. Per voi. Ecco, benissimo.